pacchiotto matto che ulula la luna. Lassù c'è mica qualcuno che viene stasera a farmi visita, magari quelli dietro nella parte oscura. Noi vogliamo gli alieni, mica i boss stranieri da queste parti. Noi vogliamo soltanto che qualcuno ci dia una cazzo di droga per drogarci. Ecco, la dico tutta, rimango qui con tutta la truppa di Roncazzo, così venderò come un pazzo anche questa canzone qui, ci faremo pure i cazzi nostri. Sì, bravi ragazzi, ma lasciateci l'hashish almeno libero, almeno un goccio d'ero prescritta da un dottore serio. Sì, perché vogliamo curarci, ma strafarci lo stesso. Siamo bravi ragazzi, lo stesso. Disonesto non è il nostro metodo di guarigione. Noi vogliamo più la pace nel mondo che la guerra. Per favore, non dite che quelli della sinistra sono degli sfigati, perché ci sono dentro anch'io, e gli sfigati saranno quelli dell'estrema destra, che credono di essere meglio di un punk a bestia. Credono di essere la festa. Sì, sì, la festa di chi? Quando guardate di dire nostre donne, ve la mettiamo nel culo con questo cazzo, mica con quello lì, capito? Noi siamo il dito medio puntato verso il cielo, siamo lo sclero di una guarigione mistero, bah, vedrà chi si disinformerà a sto punto della canzone qua.